Papa Voigt, che ti fumi lo spinello dell'amore e annulli il tuo arbitrio in un'estasi divina, che ti rallegri se nessuno ha sciolto MDMA nell'acqua santa, che scivola su una goccia per la tua fronte faticosa e benedetta, e ti annuncia a Dio come se fosse il vicario del tuo santo papa. Papa Voigt, che trascorri la santa veglia all'addiaccio e magari ti vorresti baciare con la tua ragazza o tastarle le natiche o sfiorare i suoi peletti ricciuti, ma sei interdetto che c'è pieno d'intorno di suore colombiane e polacche che insieme ballano per il Signore e lo salutano con le manine benedette e protese e vibranti verso il cielo, e te le devi sorbire, mio caro Papa Voigt, con i capelli rasta e l'accento umbro e la puzza di chi non si è lavato per amore del suo Papa Beato. Il Papa che hai inseguito, tifato, amato, con inni e salmi, chitarra e tamburi, scandendo versi sacri, salendo e scendendo da autobus e treni, mentre lui, Beato, agitava le vecchie mani tremanti, quasi che mettesse in subbuglio oggetti e concetti invisibili alla rinfusa. Papa Voigt, maratoneta della fede, tu, con le tue giacche a vento, le scarpe da tennis, i panini, non hai mai mancato la veglia di Assisi, in mezzo a tende di plastica, confortato da jeans e scarpe comode. E magari quell'anno avresti preferito andare all'Heineken Jamming Festival o al Rototom Sunsplash o a un comune party rave, ma hai rinunciato con la speranza che hai in te per la tua missione di scout, e così sei andato alla giornata della gioventù, hai partecipato alla festa della fede. Altrimenti che razza di Papa Voigt saresti stato? Mio caro santo Papa Voigt.